ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite su Aruba.it. A Radio 24, due di denari, con Deborah Rosciani e Mauro Meazza. La passione si sente! Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare, per poterti rivedere, per tornare, per restare assieme a te. E come l'anno scorso. È una buona giornata a tutti da Deborah Rosciani. Grandi aspettative per il turismo quest'anno, un settore fortemente penalizzato dalla crisi economica che ci sta lasciando il Covid in tutta la sua eredità. Speriamo peraltro che sia un'eredità e che appunto una situazione così drammatica come quella dei mesi scorsi non si riproponga, non solo in autunno ma direi mai più. Ma intanto il turismo sta facendo i conti con le prime prenotazioni, peraltro chiaramente tenendo anche in considerazione il cosiddetto bonus vacanze che molte famiglie stanno tentando di utilizzare in strutture ricettive italiane. Ma perché siamo partiti con stessa spiaggia e stesso mare? Intanto perché sono in conduzione da sola questa mattina, quindi non siamo nella conduzione, nella condizione di stessa spiaggia e stesso mare, perché sono in solitaria. E chiaramente saluto Mauro che tornerà domani. Ma perché volevo raccontarvi di questa indagine che è stata rilasciata proprio da poco, che è stata condotta da questo centro studi che si chiama IRCAF e che è un'indagine nazionale sul costo dei bagni in Italia dopo l'emergenza Covid. Allora, i dati parlano di tariffe in rialzo per quello che riguarda lettini ed ombrelloni. Aumenti medi a luglio del 4% per il costo giornaliero e del 5% per quello settimanale rispetto allo stesso mese di un anno fa. In agosto gli aumenti medi si sa già che saranno intorno al 6%, evidentemente è un calcolo fatto per chi ha già potuto prenotare e fermare i prezzi per il prossimo mese. Quindi aumenti medi del 6% sia per il giornaliero sia che per il settimanale rispetto ad un anno fa. In agosto, alta stagione rispetto a luglio, c'è un aumento del 9,24% per il giornaliero e del 10,74% per il settimanale. Allora, l'indagine ha preso in considerazione il costo di un ombrellone e due lettini nelle settimane di media stagione dal 18 al 25 luglio, quindi per 7 notti, e di alta stagione dall'8 agosto al 15 agosto, per capire come si presenta il quadro delle politiche di prezzo e servizio nelle spiagge italiane anche alla luce delle nuove linee guida del governo e delle ordinanze locali. Fra le diverse misure nuove ne sono previste per la misurazione della temperatura all'ingresso del bagno, il distanziamento fra le persone degli ombrelloni, la sanificazione di lettini e sdraio ad ogni cambio di persona e nucleo familiare, un'indagine che ha coinvolto 50 stabilimenti balneari. E chiaramente anche a causa di tutti questi nuovi adempimenti non ci sorprende il fatto che i gestori degli stabilimenti abbiano dovuto adottare delle politiche di prezzo un pochino più alte. Speriamo naturalmente di poterle sopportare, di poterci godere le vacanze, anche perché si sa già che molti di noi se le godranno in Italia. Per fortuna viviamo in un paese meraviglioso che ci offre tantissime opportunità e quindi insomma poi vedremo a settembre che tipo di bilancio potremo fare rispetto a quello che abbiamo speso, a patto che chiaramente possiamo anche spenderlo, perché non ci dimentichiamo, anche alla luce di tante indagini che vi raccontiamo continuamente, ci sono tante famiglie che invece non potranno permettersi alcunché, per cui attenti anche insomma alla lamentela per gli aumenti, se consideriamo che tanti se le passeranno a casa le vacanze. E noi salutiamo anche queste persone con un po' più di difficoltà con grande affetto, speriamo di far loro compagnia con Radio 24. E allora, detto tutto questo, fatto tutto questo preambolo, oggi è lunedì, faremo la nostra consueta trasmissione del lunedì con il Meteo Borsa di apertura. Fra un po' andremo all'approfondimento sulle prospettive dei mercati finanziari di questa settimana. Il tema portante di oggi invece è un tema che vi piace tantissimo. Anche stamattina il Sole 24 Ore ci torna con una pagina molto articolata Eco bonus 110% per i lavori di ristrutturazione, di riqualificazione energetica delle nostre case, perché sappiamo che per ottenere questo imponente vantaggio fiscale introdotto dal decreto rilancio, in realtà i lavori di ristrutturazione dei nostri edifici, dei nostri stabili, delle nostre case devono essere importanti e far fare un salto di qualità energetica impegnativo appunto all'edificio. E quindi bisogna fare un'analisi accurata, preventiva, una diagnosi della casa, chiamiamola così, non è solamente in tema sanitario che si utilizza questo termine, ma anche evidentemente in ambito edilizio. E quindi oggi torneremo a rispondere anche a tutti i vostri dubbi sulla possibilità di rientrare nell'agevolazione, tenendo conto appunto che il decreto rilancio è stato convertito in legge nei giorni scorsi, quindi ormai abbiamo un dettaglio più preciso. Anche se molti ancora ne mancano, perché sapete che mancano tante istruzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate, e soprattutto l'Agenzia delle Entrate deve dare istruzioni precise alle banche per capire come queste potranno gestire il credito d'imposta appunto di cui si incaricheranno per conto di contribuenti ed imprese. E oggi vi racconteremo anche, per esempio, una grande banca italiana, Banca Intesa San Paolo, come si sta preparando ad affrontare questa operazione, perché già bussano alla porta, anzi sarebbe più corretto dire bussano allo sportello, molti clienti che vogliono informazioni. Quindi intanto vi anticipo già che se volete intervenire su questo argomento, come fate sempre, potete chiamarci all'800 24 00 24, scriverci al 349 238 6666. Ci confronteremo questa mattina con alcuni tecnici, nella fattispecie il nostro tecnico di riferimento sarà Valeria Erba, presidente di ANIT, l'Associazione Nazionale Isolamento Termico e Acustico. Fatte tutte queste premesse, come direbbe Maura, adesso è tempo invece di andare a dare un'occhiata all'andamento della mattinata, ma anche ai temi della settimana dal punto di vista dei mercati finanziari. Meteo Borsa. L'ospite di questa mattina Alessandro Aspesi, Country Head per l'Italia di Columbia Threadneedle Investment. Buona giornata e benvenuto. Buongiorno Deborah, grazie per l'invito. Allora, una giornata intanto che vedo è molto interessante per l'Europa. Siamo tutti appesi alle trattative europee difficilissime per portare a casa il Recovery Fund, soprattutto l'Europa sta discutendo del suo prossimo bilancio, su quali numeri si potrà giocare. Abbiamo avuto un weekend di trattative estenuanti, si riprendono i lavori oggi alle 16, ne abbiamo parlato tanto nel corso dei nostri appuntamenti con il giornale radio nella mattinata, e proprio per la difficoltà delle trattative del weekend, dottor Aspesi, molti operatori, io sentivo i telegiornali ieri sera, dicevano c'è un grande timore su come i mercati finanziari potranno reagire rispetto all'esito delle trattative fino a questo momento. C'è grande difficoltà nel portare avanti un risultato, soprattutto per i paesi che hanno più bisogno delle risorse del Recovery Fund, e sappiamo quanti paletti stanno ponendo i cosiddetti paesi frugali, guidati in particolar modo dal premier olandese Mark Rutte, spalleggiato appunto in particolar modo dal premier austriaco. In tutto questo l'Europa stamattina è partita male e adesso sta cambiando totalmente la direzione, perché vedo Francoforte in salita in termini positivi più 0,6%, Parigi più 0,34% e ancora in leggero calo Londra meno 0,15%, ma nettamente migliorato rispetto all'apertura. Stesso cambio di passo anche per Milano, più 0,29%, dove concentriamo le attenzioni perché ci sono dei fatti che riguardano il mercato domestico molto importanti. Ma direi di partire proprio dalla questione europea. Come mai il mercato azionario sta cambiando impressione sull'andamento delle trattative? In questo momento chiamiamola una situazione di calma apparente. Quello che abbiamo visto sui mercati è comunque un mantenimento degli ottimi livelli raggiunti settimana scorsa, e se guardiamo anche il barometro della rischiosità dell'area europea, vediamo addirittura che l'euro sta guadagnando nei confronti del dollaro. Quindi questo è un segnale dove i mercati finanziari stanno dando fiducia a un possibile accordo nel corso della giornata. È chiaro che i due temi che sono in discussione attualmente al Consiglio europeo sono molto molto importanti. Il primo riguarda le condizioni alle quali si potrà accedere con il Recovery Fund, e soprattutto la parte dedicata a finanziamento di fondo perduto rispetto a quella a prestito agevolato. E la seconda ovviamente è una questione squisitamente politica, dove c'è chi spinge per una competenza legata al Consiglio dell'Unione Europea e nella fattispecie all'Ecofin, che sono i paesi frugali che ovviamente vogliono essere artefici delle decisioni di altri paesi, oppure la maggioranza della comunità europea invece che vuole la Commissione europea come tenutaria, insomma, delle scelte sulle decisioni di investimento. Tutto ciò però ha un prezzo molto molto alto e i mercati in questo momento stanno considerando il fatto che una possibile transazione, un compromesso è più che accettabile in questo momento, proprio per non andare a rompere un embrione di ripresa che abbiamo visto in Europa, e soprattutto perché la guerra intraeuropea non fa bene a nessuno. I rapporti comunque tra paesi del nord e del sud sono interconnessi, e di conseguenza un'ulteriore pressione e per quanto riguarda l'incertezza sull'area europea non farebbe bene a nessuno. Quindi la partita è troppo grande da perdere, ecco, mettiamola così. Ottimo, quindi questa è un po' la considerazione che si sta facendo in queste ore nella comunità finanziaria, nella comunità degli investitori. Intanto vedo che la Cina ha chiuso di nuovo molto bene, con rialzi fra i 2,5 punti e i 3 punti dei principali panieri, Tokyo più 0,09. Vedremo oggi Wall Street come apriranno le contrattazioni questa settimana, in un mercato che è devastato dal numero delle vittime dei contagiati da Covid, ma il mercato continua a correre. Peraltro leggevo stamattina che anche la borsa brasiliana sta andando molto bene, è a circa i massimi da 4-5 mesi, nonostante anche il Brasile sia fra i paesi più colpiti dal numero dei contagi. C'è voglia di ripartire a prescindere appunto dall'allargamento molto preoccupante della pandemia, che tra l'altro sta colpendo adesso anche il Sudafrica. Ma a prescindere da questo, io invece la riporterei a spese in Italia, perché sappiamo quello che è successo, abbiamo questa grande operazione in corso, questa offerta pubblica di scambio di Intesa San Paolo su UbiBanca, e siccome gli azionisti di Ubi latitavano un po' nell'accettare le prime condizioni offerte da Intesa, che erano comunque già molto a premio rispetto alle quotazioni del titolo Ubi, il calcolo era stato fatto nel momento dell'offerta lo scorso mese di febbraio, e nel weekend appunto l'amministratore delegato di Intesa Messina ha deciso di rilanciare, mettendo anche una quota cash di 57 centesimi appunto per ogni azione Ubi. Le chiedo, adesso è chiaro che non possiamo dare un giudizio sulla convenienza economica dell'operazione, perché siamo in pieno svolgimento dell'operazione, ogni azionista, soprattutto i piccoli ai quali ci rivolgiamo, deve fare delle scelte chiaramente di convenienza assolutamente non condizionate dalla nostra parola. Le chiedo però che senso ha questa operazione in un'ottica europea, perché si creerebbe un grande campione nazionale. Peraltro questa notizia sta dando la spinta anche ad altre indiscrezioni su altre possibili manovre italiane in arrivo, che coinvolgerebbero Unicredit, il Banco BPM e anche Monte dei Paschi. Veda lei da dove vuole e può partire, Aspesi. Ma partiamo dalla storia. Abbiamo visto comunque la necessità di un processo di consolidamento già a partire dai primi anni 90, e questo ha impattato soprattutto i paesi del nord europeo, dove ci sono state importanti aggregazioni che hanno favorito comunque un miglioramento dei bilanci delle banche commerciali, che sono quelle che ovviamente sono più esposte al ciclo economico, e hanno dato anche una profittabilità e una sostenibilità degli utili maggiore per il futuro. Il mercato azionario bancario finanziario italiano è estremamente frammentato, e quindi è molto logico che si cerchino dei processi di consolidamento che permettano di migliorare i coefficienti patrimoniali delle banche e soprattutto di servire al meglio la propria clientela. Potrebbe essere un effetto domino questo di Intesa Ubi, potrebbe sicuramente esserlo, anche perché diventando un gruppo veramente importante a livello europeo e di primaria importanza a livello italiano, è chiaro che potenziali contromosse possano eventualmente svilupparsi, ma penso che questo sia nel bene comunque del settore finanziario italiano, perché tanto più le banche sono efficienti, tanto più riescono a rispondere meglio alle esigenze dei clienti, e tanto più riusciamo a fare ripartire questa economia in grandissima sofferenza. Esatto, infatti sarebbe stata Aspasi la mia prossima domanda, perché vabbè, l'operazione di Intesa su Ubi è stata annunciata a febbraio, quando per la verità la pandemia era partita in Cina, era nel suo pieno, nel suo culmine in Cina, e quindi ancora da noi non ne avevamo minimamente le avvisaglie, almeno non così gravi. Ma mi chiedo, proprio alla luce di quello che è l'impatto terribile sul tessuto economico di questa situazione appunto pandemica. Forse è necessario che il sistema finanziario abbia le spalle più grosse in tutta Europa proprio per gestire le conseguenze di questa situazione? Certamente sì, anche perché in questo momento quello che è bloccato è quello che viene chiamato il meccanismo della trasmissione del credito, quindi l'opportunità di finanziare imprese in difficoltà o in crisi di liquidità in questo contesto molto complicato, e la capacità di offrire questo tipo di servizio può solo avvenire se hai delle spalle larghe e dei coefficienti patrimoniali che ti permettano di impiegare al meglio i tuoi depositi a favore dell'economia certo. reale. E quindi è una scelta da fare, è dolorosa perché ovviamente tutti i processi di consolidamento portano anche a delle nuove riorganizzazioni aziendali, dei nuovi disegni di amministrazione dell'azienda, ma è il mondo che sta andando in questa direzione. Non è un caso che le banche certo. americane, che sono molto meno frammentate che le banche europee, sono uscite addirittura con i numeri straordinari nel corso del secondo trimestre del 2020, che come sappiamo è stato largamente dominato dal lockdown. Infatti, tra l'altro, conti molto buoni derivanti anche dall'attività di investment banking, come si dice in gergo, ma non ci dimentichiamo che soprattutto le banche commerciali hanno dovuto mettere da parte molti soldi. Si dice, noi lo semplifichiamo questo concetto, ma devono mettere appunto a riserva molto denaro, molta liquidità proprio per fronteggiare quello che è un fenomeno che arriverà presumibilmente, lo hanno già messo in conto, molti nuovi crediti deteriorati prossimamente, perché si sta già facendo il punto della situazione su quante aziende potranno fallire e chiaramente il sistema bancario dovrà affrontare anche questo argomento. Ne parleremo però a tempo debito. Io intanto ringrazio Alessandro Aspesi, Columbia Threadneedle Investment, per essere stato con noi. Gli auguro una buona giornata, presto. Arrivederci, grazie. E noi arrivederci, e noi andiamo con il nostro giornale radio da risparmio. Mi corre subito l'obbligo di ringraziare il maestro Simone Ori, un grandissimo direttore d'orchestra del Maggio Fiorentino, che ci ha rielaborato la sigla di Due di Denari, che noi utilizzeremo tante tante volte, perché maestro Ori ci è piaciuta moltissimo. Quindi grazie da parte mia, da Mauro Meazza, appunto, per questo graditissimo pensiero. Rapidamente un paio di notizie del GRR prima di andare al tema di oggi, perché so che già state scalpitando per avere qualche notizia in più. Parlavamo prima di quanto costeranno in più quest'anno, tra luglio e agosto, il lettino e l'ombrellone al mare, ma nel frattempo abbiamo anche un bilancio, una cifra. Chiedo gentilmente alla regia se mi abbassa un po' la musica, perché in cuffia è un po' troppo alta per me. Abbiamo questo, questa cifra comunicata dal Ministero appunto dei beni culturali. Sono quasi 630.000 i voucher per il bonus vacanze scaricati dagli italiani in poco più di due settimane dall'attivazione. Sappiamo che è complicato perché bisogna fare l'identità digitale, sappiamo anche quanto questa iniziativa sia stata un pochino ostacolata, perché raccontiamo molto spesso di quante strutture turistiche italiane appunto non accettino di buon grado che le famiglie italiane con determinate caratteristiche appunto economiche e reddituali si presentino con questo voucher, ma in realtà le famiglie invece si sono attrezzate di buona volontà e hanno appunto scaricato tutta l'applicazione per poterlo utilizzare, per cui c'è anche grande soddisfazione da parte dell'Agenzia Nazionale per il Turismo. I voucher già spesi dagli italiani sono circa 47.000, i primi numeri appunto sono stati commentati anche dal ministro di questo ministero, Dario Franceschini, che ha detto questi numeri dimostrano quanto questa misura a sostegno del turismo interno dei nuclei familiari con redditi più bassi stia funzionando. Sono certo, ha anche detto, che gli albergatori aderiranno sempre più numerosi. Un'altra notizia, peraltro ne scrive oggi anche il Sole 24 Ore in un pezzo che fa un po' una ricognizione sulle strutture turistiche italiane, a firma di Marta Casadei e Flavia Landolfi. Altro pezzo commentato, altro tema largamente commentato appunto sulle pagine del Sole 24 Ore di questa mattina, il tema dello smart working. Lo dico molto velocemente perché poi noi ci torneremo mercoledì nella nostra trasmissione appunto di metà settimana dedicata proprio al lavoro. Lo smart working cerca l'assetto per il futuro, c'è però un grande grado di apprezzamento da parte del mondo dei lavoratori, anche se si attende una decisione sulla scadenza del 31 luglio, che è la termine per il quale è stato prorogato appunto l'attuale stato di emergenza. È chiaro che il lavoro agile avrà una prospettiva di lungo periodo, ben oltre la fase dell'emergenza per l'appunto, e quindi si cerca di capire come tutto questo nuovo modo di lavorare per molti lavoratori, molti operatori professionali, potrà diventare qualcosa di strutturale e abituale per molte aziende. Il Sole 24 Ore di oggi ha predisposto un decalogo con i punti fondamentali per quello che è stato definito un cambio di passo, e allo stesso tempo, attraverso un'indagine di noto sondaggio, è stato tastato il polso dei lavoratori italiani, i quali ritengono a larghissima maggioranza, oltre il 65% degli intervistati, che lo smart working sia stata un'esperienza positiva. Noi torneremo a parlarne anche mercoledì prossimo. Direi che per il GRR è tutto, perché vorrei andare subito al tema di oggi, all'eco bonus al 110%. Allora, un tema, come vi dicevo, assolutamente molto gettonato da parte vostra. Parlo naturalmente dei nostri ascoltatori, che apprezzano sempre moltissimo tutte le volte in cui noi parliamo di casa, perché sappiamo che gli italiani sono dei proprietari con grande piacere, anche se poi anche l'investimento nel settore del mattone, lo sapete, ha dato delle delusioni negli ultimi anni, e anche il mattone, anche l'investimento nel settore immobiliare si è comportato come tutte le classi di investimento. È ancora molto apprezzato, ma ha manifestato dei momenti di difficoltà. Sicuramente molto si deve anche al fatto che il nostro patrimonio edilizio, pur con tutti i bonus fiscali riconosciuti negli ultimi anni, sono diventati praticamente strutturali e in questa fase sono molto generosi. È un patrimonio edilizio che rimane vecchio, che andrebbe continuamente riqualificato, ed ecco perché appunto negli ultimi provvedimenti, anche per rispondere a questa drammatica crisi che viviamo, è stato predisposto questo cosiddetto bonus del 110%, una detrazione molto importante sui lavori di riqualificazione energetica, che però devono portare ad un salto di qualità notevole dello stabile in cui si abita, dello stabile che è oggetto di questi lavori. Allora, il decreto rilancio che contiene questa norma è stato convertito in legge questa settimana. Mancano però ancora molti punti all'appello, e allora sentiamo un po' i tecnici quali difficoltà hanno in questo momento. Cominciamo la nostra conversazione con, io non mi ricordo perché Valeria Erba la conosco molto bene, ma la chiamerei presidente di ANIT, l'Associazione Nazionale Isolamento Termico Acustico, ma anche un ingegnere, se non ricordo male, dottoressa Erba. Sì, ciao Deborah, sì, buongiorno a tutti, grazie. Sì, sono anche ingegnere, anche bene, a volte anche faccio anche l'ingegnere, sì. No, insomma, ingegneri che in questo periodo appunto staranno, immagino, alle prese con un'attività di consulenza, perché ancora diciamo che i lavori non sono partiti, tutti quelli che vorrebbero come dire, beneficiare di questo incentivo molto importante. Quindi la prima domanda che le faccio, ingegnere Erba, anche se tra poco devo andare ai mercati, ma una prima domanda possiamo già farla: quali sono le richieste di consulenza che sono particolarmente gettonate in questo momento? Appunto, esiste una gamma molto ampia di edifici nel nostro paese che avrebbero la possibilità di fare questo doppio salto energetico per poter utilizzare questo incentivo fiscale che lo Stato ha messo in campo in questo momento per fronteggiare la crisi, naturalmente per ridare un po' di respiro al settore dell'edilizia e al contempo anche per riqualificare il nostro patrimonio edilizio. Sì, allora, come noi sappiamo, il 110% viene dato, come hai già detto, per interventi di grosse dimensioni che abbiano un miglioramento di prestazione energetica notevole. Gli interventi principali sono interventi di isolamento dell'involucro opaco o sostituzione degli impianti, quindi questi sono gli interventi cosiddetti trainanti. Ad oggi che cosa si chiede? Fondamentalmente, parlando dell'utente finale che magari ha già iniziato dei lavori, magari in condominio, o deve iniziarli, se riesce effettivamente a rispettare questi requisiti. Quindi è necessario da parte di professionisti qualificati, mi viene da dire, molto qualificati sul tema della riqualificazione energetica, fare una diagnosi. Quindi è fondamentale per l'utente finale avere una diagnosi energetica del proprio edificio che gli dice qual è la situazione attuale e dove può arrivare e che quali sono gli interventi che possono permettergli di raggiungere i requisiti previsti dal 110, perché poi è importante riuscire a raggiungere questi requisiti, perché se poi non vengono raggiunti è ovvio che c'è ovviamente l'incentivo non viene dato e quindi possono esserci delle, certo, problematiche, dei contenziosi e quant'altro, quindi è importantissimo. Uh-huh. Detto questo, dico no, non fermiamoci comunque, cioè se qualcuno ha già iniziato dei lavori, punti verso i lavori che raggiungono i requisiti di isolamento termico già previsti per legge o quelli dell'ecobonus 65%, perché poi dopo sono simili. Puntiamo a analizzare il comportamento energetico del nostro edificio sotto tutti i punti di vista, di modo che poi dopo, quando avremo questi decreti attuativi del MIS, del Ministero dello Sviluppo Economico e provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate, potremo veramente capire a livello burocratico come andare avanti e quindi prevedere questi incentivi. Certo. Allora, adesso devo andare in pausa, Valeria, perché abbiamo i mercati. Voi aspettate le istruzioni del Ministero dello Sviluppo Economico, ma anche le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate, che sono particolarmente attese invece dal sistema bancario, perché il settore deve dare una risposta a tutti quei contribuenti che devono fare l'accessione del credito d'imposta. Cercheremo di capire che cosa sta dietro a questo concetto, che cosa vuol dire, perché è così importante anche chiarire questi aspetti. E fra un po' ce lo faremo raccontare proprio dal settore bancario. Tutto questo però dopo i mercati. A tra poco. Rosciani, Meazza, portano la borsa alla piazza. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Due di Denari. Eccoci di nuovo in diretta, stiamo parlando di un tema che apprezzate sempre molto, infatti abbiamo degli ascoltatori già pronti ad intervenire. Ho anche una mail di un'ascoltatrice con una situazione un pochino complessa che poi vi vorrei leggere e che naturalmente sottoporrò all'attenzione dell'ingegner Valeria Erba. Ma c'è anche un altro tema importante e anche questo peraltro è una novità, c'è la possibilità di cedere il credito d'imposta che deriva dai lavori che beneficeranno del super bonus del 110%. Cessione che può avvenire anche alla banca. E allora come avverrà questa operazione? Ma soprattutto le banche sono pronte o hanno bisogno anche loro di ulteriori istruzioni? Due grandi istituzioni hanno fatto sapere di essere, almeno fino sulla base delle informazioni che anche loro hanno fino a questo momento, di essere pronte a partire. Allora sentiamo Anna Roscio, responsabile sales e marketing imprese di Intesa San Paolo. Cosa stanno predisponendo e soprattutto appunto quali sono le maggiori curiosità che arrivano da parte della clientela? Per fortuna, dottoressa Roscio, intanto buongiorno. Con buongiorno. Tutta l'attività di erogazione di prestiti che dovete fare in questo momento, quantomeno c'è anche la possibilità di dare delle risposte di altro tipo alla clientela in questa fase. Allora, come vi state preparando appunto e soprattutto voi ancora di quali informazioni avete bisogno per poter partire? Beh, intanto grazie Deborah, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, allora Intesa San Paolo si sta preparando ovviamente nell'ambito di quello che è il quadro normativo che in questo momento è a disposizione. Manca ancora un provvedimento importante che è il regolamento delle agenzie delle entrate, che dovrà ancora disciplinare nel dettaglio i tempi e i modi della gestione della cessione del credito d'imposta. Quello che è importante però dire agli ascoltatori è che quello che abbiamo anche comunicato la settimana scorsa è quello che la banca è pronta, insomma si sta attrezzando per gestire, no? E per poter acquisire dalle imprese o dai privati i crediti d'imposta che verranno maturati a fronte degli interventi di efficientamento energetico, di adeguamento sismico. E questo è importante per dare chiarezza agli operatori che una grande banca che appunto ha una capacità fiscale importante è pronta quindi a intervenire, no? Nell'ambito di questo intervento normativo a cui noi diamo particolare importanza per il rilancio del settore, per il rilancio dell'economia, proprio appunto a acquisire il credito d'imposta che verrà maturato. Quindi, certo, diciamo operativamente, che... dottoressa Roscio, cosa deve fare un'azienda per poter cedere il credito d'imposta? Ce lo può far capire con un esempio? Ma allora, diciamo che ci sono due tipologie di processi, no? Cioè, da una parte quella che è la valutazione del progetto di adeguamento energetico, e quindi questo ha i suoi canali con tutto quello che è l'attività di asseverazione, di certificazioni che la norma prevede. Noi che cosa faremo? Noi accogliamo l'impresa che ha un progetto nei confronti di un edificio, fin dall'inizio, cioè fin dal momento in cui matura il progetto e quindi il lavoro che l'impresa deve avviare, noi faremo sottoscrivere all'impresa un contratto attraverso il quale l'azienda si impegna a cedere e noi ci impegniamo ad acquistare il credito d'imposta. Nel momento in cui i lavori vengono finiti o a SAL, come a seconda la norma disciplinerà, e nel momento in cui il credito è nel cassetto fiscale dell'imprenditore, quindi del cedente, la banca lo acquisisce e quindi liquida quello che è il credito maturato. Quindi sulla carta è un processo molto semplice, poi in realtà ha tutta una serie di adempimenti normativi, di certificazioni, ma il processo è sostanzialmente questo. Diciamo che poi con l'amministrazione fiscale, nella sostanza, ve la vedete voi e liberate di questo impegno l'impresa. Cioè, io la voglio proprio banalizzare, ma mi pare di aver capito che tutto sommato è una semplificazione non indifferente per l'impresa che voglia scegliere questa strada di cedere il credito d'imposta alla banca. Per l'impresa è una acquisizione di liquidità, quindi nel momento in cui sposta dal proprio cassetto fiscale al cassetto fiscale della banca, rende liquido il credito che vanta nei confronti della pubblica amministrazione. Ancora più della semplificazione, esatto, è proprio liquidità. E liquidità immediata, per questo certo, che noi riteniamo che questa sia una norma importante, no? Perché consente alle imprese di questo settore di effettuare opere avendo quindi la consapevolezza che quel credito, nel momento in cui rispetta i requisiti previsti dalla norma e quindi è certo e residibile, gli viene liquidato dalla banca che lo porta nel proprio cassetto fiscale. Certo. Ingegnere Erba, per voi che fate le diagnosi degli edifici per capire se potranno avviare delle operazioni, degli interventi di riqualificazione per ottenere e beneficiare di questo bonus, per voi che fate le asseverazioni, è importante sapere come si muove il settore bancario? Oppure siete dei tecnici e vi disinteressate al tema finanziario che sta correndo parallelo a tutto questo tema? No, crediamo sia fondamentale, cioè... È vero che qualcuno potrebbe decidere di tenersi questa detrazione e quindi portarla avanti, oltretutto in 5 anni, però è ovvio che devi avere prima di tutto il capitale iniziale e poi devi avere una capienza fiscale, perché in 5 anni, detrarre in 5 anni non è da tutti. E quindi è fondamentale la possibilità della cessione del credito, sia per l'utente, alle imprese e quant'altro, sia per le imprese, perché questa cosa legata alle banche, agli istituti finanziari, è importantissima soprattutto anche per le piccole e medie imprese di costruzione, cioè quelle imprese che fanno i lavori, che di per sé non possono avere il credito di tutti quelli a cui fanno i lavori, perché non potrebbero sostenerlo assolutamente, e quindi verrebbero un po' esclusi da questa opportunità. Invece la possibilità di poterlo cedere nuovamente agli istituti di credito e alle banche diventa veramente un'opportunità enorme, un po' per tutti, mi viene da dire. Poi se la cosa certo, è semplice, è sviluppata in maniera corretta, coerente, senza troppi aumenti, diciamo, di queste percentuali, allora sicuramente è un gran vantaggio. E certo, mi fa molto piacere sentire che comunque le banche eccetera sono pronte, perché si sentivano voci un po' diverse, mentre invece sono molto contenta che ci sia questa. Noi quando le dobbiamo, come dire, un po' dare dei commenti sul loro operato non positivo su tante cose, non lesiniamo. Detto questo, in questi mesi veramente sono state chiamate ad uno sforzo indicibile su tutti i fronti, e quindi immaginiamo che per loro mettere anche Dottoressa Roche, magari glielo chiedo, un intervento che non era proprio usuale per voi, perché appunto farvi carico del credito d'imposta nell'ambito delle ristrutturazioni credo che sia proprio la prima operazione che il sistema bancario fa, per cui anche metterlo a sistema, a regime, immaginiamo abbia richiesto anche uno sforzo non indifferente. Mi sbaglio? Assolutamente sì, ha richiesto e sta richiedendo evidentemente un'attività di lavoro interno per la definizione dei processi, per come dire, la gestione di quella che immaginiamo possa essere una domanda molto ampia, perché come è stato detto poco fa, effettivamente questa modalità consente, no, anche alle piccole e medie imprese che non hanno la possibilità di portarsi in detrazione diretta al credito d'imposta di far parte di questa partita, no? Di questo rilancio, di questo rilancio del settore. Quindi indubbiamente questo è un impegno grande che fa seguito a quello che è stato il grande impegno che c'è stato da parte del sistema bancario durante la fase del Covid, con tutto quello che sono stati i finanziamenti collegati al decreto liquidità. Adesso partiamo con un nuovo processo che appunto è coerente col decreto rilancio. Certamente non è un'operazione semplice questa, perché è un'operatività nuova per il sistema bancario, ma ci stiamo evidentemente attrezzando per poterlo gestire al meglio, facendo un buon servizio alle imprese e ai contribuenti. Agenzia delle Entrate permettendo, speriamo che si muovano anche loro un po'. Intanto grazie ad Anna Roscio, Banca Intesa San Paolo, per essere stata con noi. Ho il traffico, chiedo all'ingegnere Erba, Valeria Erba, di rimanere naturalmente con noi. L'ultima parte la dedicheremo alle domande dei nostri ascoltatori, ma soprattutto cercheremo di capire, visto che ormai stiamo più o meno provando ad andare tutti in vacanza, quindi non è che vedremo tutto questo fermento nella richiesta di preventivi ai professionisti per eventualmente predisporci mentalmente anche all'effettuare appunto questi lavori nelle nostre abitazioni, ma che cosa è possibile fare già da ora, a che cosa già possiamo cominciare a pensare? Ne parliamo fra qualche istante dopo il traffico. Due di denari. Allora, dicevamo prima, scherzando, gli ascoltatori, i contribuenti, i cittadini bussano già agli sportelli delle banche per capire come funzionerà il credito d'imposta, ma non mancano neanche gli ascoltatori due di denari. Allora, Maurizio dalla provincia di Fermo, mettiamo subito alla prova l'ingegnere Erba, che è preparatissima su questi argomenti. Maurizio, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno e grazie per l'opportunità che mi date. La mia domanda è molto difficile perché due ingegneri non sono riusciti a darmela. Io ho una casa bifamiliare. Guarda, è una domanda difficilissima perché io ho una casa bifamiliare, siamo io e mia sorella, due appartamenti. A dicembre ho messo i pannelli solari di 3 kW. Adesso io con questo bonus del 110% vorrei mettere la pompa di calore e mettere il raffrescamento a casa. Però i 3 kW non mi bastano, perché la pompa di calore deve essere unica per tutti e due gli appartamenti. E vorrei potenziare i pannelli solari, di portarli a 3 kW, a 6 kW. Questi due ingegneri mi hanno detto no, perché tu già usufruisci del bonus del 50% in 10 anni, certo. Quindi non puoi fare questa cosa. Però i pannelli solari sono a nome mio. Se invece li mette mia sorella, no? Quindi la cosa è molto intrinseca, è complicata. Grazie. Grazie a lei, Maurizio. Che bello sentire il dialetto marchigiano. Io vi amo tutti quanti. Allora, ingegnere Erba, allora venisse Maurizio da lei questa mattina in ufficio, da dove partirebbe la sua attività di consulenza su questa situazione? Ma allora, da quello che ho capito, la pompa di calore è una nuova installazione, quindi sicuramente, come è già stato detto, la pompa di calore deve gestire tutto l'edificio, perché la sostituzione deve essere fatta con un impianto centralizzato, quindi non può essere suddiviso. E la pompa di calore da sola, ahimè, non credo riesca a raggiungere il doppio salto di classe, quindi potergli permettere di accedere direttamente. Non è detto, però dipende anche da dove parte l'edificio. Però diciamo che sono interventi comunque complessi. L'installazione eventuale di nuovi pannelli solari che vadano ad aiutare appunto il tutto, secondo me potrebbero rientrare, potrebbe essere una di quegli interventi trainanti che mi fanno accedere al doppio salto di classe. C'è però il tema che se con gli altri pannelli già lui ha, diciamo, detrae per il 50% mm-hmm. il lavoro, dovrebbe riuscire a distinguere un po' i due lavori, dire ok, quei pannelli sono una cosa e li lascio separatamente, sono già installati. Io adesso metto la pompa di calore e ne installo degli altri, nuovi, perché deve essere comunque una nuova installazione su cui io già non ho detrazioni, ovviamente, non posso sommarle sullo stesso intervento. E quindi bisognerebbe un attimino capire se si può fare un intervento che sia veramente, che resti un po' separato da quello che è già installato. Però qui è una cosa. Comunque diciamo che linea, esatto, diciamo che comunque avevano ben detto i primi due ingegneri sentiti da Maurizio lo stato dell'arte: sulla base del lavoro che lui vuole fare non può utilizzare il 110% appunto per installare questa pompa di calore, e che gli richiede appunto l'aumento della potenza dei pannelli solari già utilizzati. Se fa un lavoro di ampliamento di altro tipo, allora forse, e non è detto, potrebbe arrivarci. Le faccio sentire, ingegnere Erba, anche Renata da Brescia. Renata, benvenuta. Buongiorno, e vi ringrazio che mi fate tanta compagnia, mi date tante cose utili da cui prendere sempre qualcosa. Allora, per gentilezza, mia figlia vorrebbe ristrutturare il suo appartamento, che tutti gli infissi, perché fanno acqua dappertutto, e anche l'impianto elettrico. Voleva sapere in quanto tempo può dedurre quanto può dedurre, e se c'è qualcosa da dedurre anche rifacendo bagno e cucina, diciamo tutto ristrutturato. Grazie Renata. Allora, ingegnere Erba, qua mi pare che ci muoviamo sul terreno degli incentivi fiscali già noti, di cui abbiamo parlato tante volte. Non parliamo appunto del super bonus 110%, anche se tutto sommato quelli che abbiamo non è che li possiamo proprio disdegnare. Però due indicazioni veloci a Renata, poi torniamo al tema di stamattina. No, certo, ricordiamoci sempre che abbiamo dei provvedimenti da tantissimi anni ormai validi, eccetera, e che quindi quelli dobbiamo tenerceli ben cari. È vero che vengono prorogati di anno in anno, quindi non si hanno mai certezze, però comunque speriamo che vengano prorogati anche quest'anno. In questo caso rientra nel bonus casa, perché la sostituzione di tutti i serramenti, volendo, può entrare nell'eco bonus, ma siccome la percentuale più o meno è la stessa, è sempre 50%, farei rientrare tutti i lavori di ristrutturazione dell'appartamento e quant'altro all'interno del bonus casa al 50%. In 10 anni, naturalmente. In 10 anni, esatto, viene spalmato su 10 anni. Sì, ricordiamola questa cosa, perché anche noi quando chiamano, i 5 anni valgono solo per il bonus, eco bonus 110%, tutti gli altri provvedimenti restano in 10 anni. Bene, Renzo da Venezia, stamattina veramente in tanti state intervenendo, quindi ci fa piacere per una volta tanto riuscire ad accontentarvi nella misura maggiore possibile. Renzo? Sì, buongiorno, abito a Venezia, centro storico, buongiorno. E devo sostituire la caldaia perché è obsoleta con una condensazione. E purtroppo la canna fumaria è molto vecchia, dunque devo adeguarla alla caldaia a condensazione. Questi lavori rientrano nel super bonus oppure nel bonus casa? Allora, anche qua io non sono un tecnico, però mi pare di capire, non so quanto. Avete l'ingegnere? Certo, no, Renzo, non mi stavo sostituendo assolutamente. Così, immaginando e avendo così la voglia di aver capito qualcosa, però può far fare un lavoro di questo tipo, il doppio salto di qualità energetico all'abitazione, ingegnere Erba? Allora, la sostituzione con una caldaia a condensazione rientra tra gli interventi che possono accedere, però ci sono questi requisiti per cui il doppio salto di classe solo con la sostituzione della caldaia la vedo un po' difficile. Poi dopo uno può far fare un po' di prove, un po' di calcoli. Le opere, diciamo, sulla canna fumaria, ahimè, secondo me quelle rientreranno nel 50%, perché non sono opere accessorie all'installazione della pompa di calore o della caldaia a condensazione o ad altro, ecco. Quindi a mio parere quelle opere lì, non è stato chiarito ancora esattamente tutto, però se se parliamo anche degli altri provvedimenti, rientreranno nel 50% questo tipo di opere. Niente, abbiamo ancora delle settimane di studio matto e disperatissimo su tutto questo argomento, in attesa che arrivino i provvedimenti attesi dal Ministero dello Sviluppo Economico e dell'Agenzia delle Entrate. Grazie all'ingegner Valeria Erba, noi torniamo domani con Mauro Meazza. Un saluto a tutti da Deborah Rosciani. Buona giornata. Per le aziende e professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.